Buonasera, dottore. Buongiorno, dottoressa. Pronto? Sì, sì. Cioè, ci siamo un po'. Ci siamo un po'. Qua siamo dottoressa, infermiere, sì, giornalista, conduttrice. Mauro. Sì, buongiorno, salve, ascolti, niente. Bene, direi che è importante. Buongiorno, dottoressa, grazie. Ma adesso non so, dipende. E denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Scende l'acqua scossa, l'acqua calda, fredda, calda, giusta. Shampoo rosso e giallo, quale marocca mi va. Cara la mia Nicoletta, se io non ho capito male, qua dobbiamo cominciare a centellinare le docce. E non è, proprio, non è la gran notizia. No, però sai, ecco, la troppa igiene, alcuni dicono che sia responsabile dell'aumento delle allergie. Quindi magari diventiamo sani. Allora, mettiamola pure così. Intanto spieghiamo un po' stamattina ai nostri ascoltatori questa notizia che certamente avranno letto su tutti i giornali. Pochi giorni fa l'autorità dell'energia e del gas, che gestisce anche la tariffazione del sistema idrico, ha approvato le nuove tariffe dell'acqua. Una novità che riguarda non una o due persone, ma lo dicevi anche tu nelle anticipazioni, 40 milioni di italiani, tutti, quindi pure me e te. L'autorità ha diffuso la comunicazione nel corso della conferenza nazionale sulla regolazione dei servizi idrici. Di quanto sarà questo aumento? Più 3,9% per quest'anno, più 4,8% per il 2015. Le associazioni dei consumatori sono già sul piede di guerra. Immagino. E però, guarda, che più che contestare gli aumenti, puntano un po' il dito contro la qualità dei servizi idrici del nostro paese, perché sai, siamo tutti d'accordo sul fatto che di fronte a un buon servizio siamo anche disposti a pagare un po' di più. E allora cercheremo di capire un po' qual è anche, come dire, l'essenza di queste contestazioni. E lo faremo al nostro numero verde 800 24 00 24. Parliamo di acqua, ma nella seconda parte della trasmissione parleremo di acque termali. Se le avete provate, se state accarezzando l'idea, chiamateci per conoscere più da vicino questa medicina antica. Sai, Deborah, che la medicina termale è una delle più antiche forme di terapia dell'Occidente. E per questo viene considerata a pieno titolo come una medicina tradizionale, però al placet della scienza, che ha studiato i meccanismi d'azione e ha dimostrato il ruolo preventivo e curativo delle acque. 800 24 00 24 per saperne di più. Tra l'altro, l'idroterapia è stata di recente inserita dall'OMS tra le strategie e gli obiettivi della medicina tradizionale complementare 2014-2023. Avremo e abbiamo molte cose da raccontarci, tanti trattamenti di cui parlare, per individuare con l'aiuto del nostro esperto quello più adatto al caso nostro: dolori articolari, riabilitazione, malattie della pelle, malattie dell'apparato respiratorio, ma anche remise en forme, bellezza, benessere, gestione dello stress. Insomma, a ciascuno la sua acqua. Diteci se avete già trovato la vostra, in caso contrario la troviamo noi per voi. Basta chiamare il nostro numero verde. Allora, eccoci a commentare un tema che sta già facendo preoccupare molte famiglie. Vediamo se stamattina le riusciamo a tranquillizzare o meno. Con un metodo per la prima volta definito omogeneo in tutta Italia, sono state approvate le tariffe dell'acqua 2014-2015 per circa 40 milioni di italiani. Lo dicevamo prima, c'è questo aggiornamento medio rispetto all'anno precedente del più 3,9% per quello che riguarda quest'anno e più 4,8% per l'anno prossimo. Cosa significano queste percentuali? Che impatto ci sarà nelle spese fisse delle famiglie? Perché per l'acqua, sia che la paghiamo direttamente, io la pago con le spese condominiali. Tu, Nicoletta? Anch'io. Anch'io, scusa, non avevo il microfono acceso. Eccoci anch'io. Qua. Allora, subito la domanda ai nostri ascoltatori. Avete già fatto un conto dopo aver letto le notizie sui giornali? Noi parliamo quasi sempre qui a Cuore Denari di luce e gas, ma quanto pagate di bolletta d'acqua? Leggeteci la vostra bolletta e raccontatecela all'800240024. Intanto spieghiamo le novità degli ultimi giorni col dottor Alberto Biancardi, componente del Collegio dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico. Buongiorno, dottor Biancardi. Buongiorno, buongiorno. Benvenuto. Salutiamo anche Luigi Gabriele, responsabile affari istituzionali di Codici, Associazione dei Consumatori. Benvenuto anche a lei. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, dottor Biancardi, se non abbiamo compreso male le dichiarazioni del presidente dell'autorità Guido Bortoni, questi aumenti delle tariffe sono stati approvati appunto dall'autorità in quanto ritenuti necessari a favorire gli investimenti prioritari per il settore. Noi siamo certamente tutti d'accordo sul fatto che è necessario un ammodernamento delle strutture idriche del paese, ma come mai questo aumento cade proprio ora, un momento in cui gli italiani già fanno tanta fatica ad arrivare alla fine del mese, no? È un momento in cui in tanti stringiamo la cinghia. Era proprio obbligatorio deliberare adesso questa riorganizzazione tariffaria, così non so se ci suona un pochino come una beffa, dottor Biancardi, ci spieghi un po' meglio. Sì, dunque, intanto l'importo che noi andiamo a chiedere tramite poi i gestori, fortunatamente un importo in valore assoluto basso, perché diciamo stiamo parlando di meno di un euro mediamente al mese di aumento, quindi fortunatamente non è un importo importante. Poi noi siamo subentrati da 2 anni e mezzo in questa funzione, via via abbiamo aggiornato le tariffe e il metodo unico serve per fare in modo che gli operatori possano investire in modo più facile, perché avendo un unico metodo è più facile dialogare col mondo finanziario. Prima, dottor Biancardi, lei ha detto siamo subentrati da 2 anni alla gestione della tariffazione idrica. Prima chi la gestiva? Prima veniva gestita a livello locale e c'erano diversi metodi proprio per questo, e a livello centrale era una tariffa fatta dal CIPE, cioè da un organismo che sta nella Presidenza del Consiglio dei Ministri. Allora, quindi adesso sostanzialmente viene varato questo metodo di tariffazione appunto omogeneo, no? Un aumento che abbiamo già indicato poco fa. Lei dice se poi lo andiamo a spalmare su tutti i consumatori, su ogni famiglia, su ogni utente, graverà per circa un euro al mese. Poi però, dottor Biancardi, c'è anche un po' tutta la tassazione applicata, come lei sa, su queste tariffe, magari l'aumento per ogni famiglia sarà un po' più alto. Complessivamente però si vogliono portare a casa 4 miliardi e mezzo di euro da destinare ad investimenti nei prossimi 4 anni per infrastrutture, tutela ambientale e miglioramento dei servizi. Ci spiega se questi investimenti riguarderanno tutte le città italiane e che tipo di vantaggio ne trarranno i consumatori, che poi alla fine tutto questo devono pagarlo? Allora, riguarda quasi tutto il paese, ci sono poche zone che dal punto di vista infrastrutturale hanno già fatto investimenti. Diciamo che le perdite attualmente sono ancora ingenti, un terzo dell'acqua circa viene persa nel corso del cammino verso il rubinetto, e poi la depurazione, la fognatura, ci sono punti del sistema in cui noi rischiamo di rovinare l'ambiente per le prossime generazioni, rischiamo proprio di rovinare le falde acquifere, e su questo che ci stiamo concentrando per fare in modo che questi investimenti vengano fatti rapidamente e al minor costo, per dare anche una qualità adeguata. In certe zone del paese, al sud penso soprattutto, sono veramente situazioni diciamo da terzo mondo, ecco, senza voler essere offensivi però diciamo molto critiche, ecco. Sì. Con l'applicazione di questo metodo tariffario idrico omogeneo si prevedono, ho letto, dottor Biancardi, 4 diversi tipi di schemi tariffari. Ci spiega cosa significa? Come facciamo a capire qual è lo schema a cui si rifà la nostra bolletta? Sì, noi abbiamo classificato tutte le varie situazioni sulla base di 2 parametri, alti bassi investimenti, alti bassi costi operativi, quindi incrociando le 2 possibilità vengono fuori, no, le quattro caselle, però non è una cosa che riguarda l'utente finale, riguarda il gestore che a secondo di dove viene posizionato avrà o meno la possibilità di utilizzare certi strumenti regolatori. L'utente finale dovrebbe avere una bolletta semplice e comprensibile, questo è il nostro fine. No, anche perché adesso che avete aggiornato anche le modalità di lettura delle bollette dell'energia, ecco, è chiaro che anche questa ci interessa che sia che possa essere appunto più chiara possibile. Mi verrebbe da chiederle quale sarà la prima bolletta calcolata con nuovo metodo tariffario, però vedo che questo più 3,9% il primo aumento riguarda già quest'anno, per cui è un aumento retroattivo, dottor Biancardi, avremo un conguaglio salato? Noi abbiamo dato, perché abbiamo organizzato la nostra relazione annuale qualche giorno fa, ma evidentemente abbiamo fatto questi lavori nel corso dei mesi scorsi, quindi in qualche caso è già entrata in vigore il nuovo metodo, gli aumenti ci sono già stati, in altro ci saranno nei prossimi mesi. Quello che abbiamo dato è una media, ma è già da 2 anni e mezzo, come dicevo, che stiamo lavorando, quindi molti di questi aumenti ci sono stati o non ci sono stati, ci sono stati anche 6 milioni di italiani che pagheranno meno l'acqua rispetto all'anno scorso. Infatti poi questo era un tema che avrei voluto affrontare con lei più avanti, ma allora lo possiamo già spiegare subito. Chi paga meno? Chi sono questi fortunati? Beh, no, diciamo che sono fortunati. Noi, il nostro lavoro di tecnici è di fare in modo che quello che costa l'acqua, no, abbiamo riflesso nella tariffa, dove ci siamo accorti che i costi erano troppo alti rispetto a quelli caricati in tariffa, no, rispetto alla realtà, abbiamo proceduto all'abbassamento delle tariffe. Allora, io vorrei anche che gli ascoltatori ce lo raccontassero, se avessero ricevuto una bolletta meno salata del passato, raccontatecelo all'800 24 00 24, insomma, hai visto mai che qualcuno paga davvero un po' meno? Perché naturalmente chi chiama la radio è invece chi ha qualche cosa da contestare, quindi chi ha versato un po' di più. Sentiamo insomma subito un numero verde per mettere tutti d'accordo. Dai, Fabio, buongiorno. Fabio da Roma. Da Roma. Che ci racconta? Allora, buongiorno. Io praticamente volevo far presente che nel comune di Leonessa, in provincia di Rieti, paghiamo l'acqua sulla seconda casa con una tariffa più alta rispetto ai residenti. Anche non consumando l'acqua vengono fuori delle bollette molto salate. E la gestione di questo acquedotto non è direttamente gestito dal comune, ma è praticamente gestito da una società che si chiama Sogea. Ultimamente abbiamo ottenuto, dopo aver fatto molti interventi, il rimborso dell'acqua della depurazione, in quanto non funzionavano i depuratori. Certo, le dice perché dobbiamo pagarli in bolletta. Esatto, ma sono anni che stiamo... È stata una battaglia. State battagliando. Come si chiama, Fabio, questo comune, mi scusi, in provincia di Rieti? Leonessa. Leonessa o con la I? Leonessa. Come la moglie del leone, insomma. Ecco qua. Allora, dai. Fabio, grazie. Intanto, duplice domanda, poi chiedo anche a Gabriele perché... appunto laziale, quindi magari conosce anche la situazione specifica di questo paese. Volevo però chiedere prima al dottor Biancardi se è prassi che per una seconda casa intanto la bolletta dell'acqua sia più salata. Sì, questo è una norma. Diciamo che noi per adesso abbiamo lavorato sulla tariffa media e l'articolazione tariffaria, come la chiamiamo noi nel gergo, cioè come questi costi vengono portati sui singoli utenti, sulle singole classi. Abbiamo lasciato ancora una buona autonomia ai singoli acquedotti. Ci sono pratiche molto diversificate, però questo è vero che mediamente la seconda casa paga più della prima casa, questo avviene anche per l'energia elettrica, per altri sì, utenti. Per è uno dei temi che affronteremo nel prossimo futuro per valutare in che modo ribilanciare quando questi differenziali sono molto alti, ma è una pratica molto diffusa. Un'ultima domanda, dottor Biancardi, perché poi lo dobbiamo lasciare andare, e poi metto, a proposito di leoni, in pasto agli ascoltatori ci getterò Gabriele, vedremo. Dottor Biancardi, no, perché lei, l'autorità, appunto, ce l'ha raccontato spesso a cuore denari per quello che riguarda luce e gas. L'autorità ha varato un bonus per le famiglie meno abbienti, per chi ha difficoltà economiche. È possibile prevedere un bonus dello stesso tipo anche per quello che riguarda l'acqua? Sì, sì, assolutamente. E anzi, è una delle cose su cui a breve ci impegneremo, perché visto che ci saranno comunque degli aumenti, quelli che abbiamo annunciato, chi ha davvero poca possibilità economica dovrà avere appunto uno strumento di sostegno. E quindi trasferiremo quella che è la nostra esperienza nel gas e nell'energia elettrica al settore idrico. Vedremo potremmo, anche se c'è bisogno di un aiuto, di una norma di legge, ma penso che possiamo fare molto anche solo noi da soli. Allora, sì, Nicoletta, dottor Biancardi, Claudio ci manda un messaggio e sì, si scrive che ad Arezzo pagano l'acqua carissima. Andrà in diminuzione, ci scrive? Allora, come siamo messi lì ad Arezzo? Sì, no, allora, la Toscana è una delle zone d'Italia, se non la zona dove si paga più acqua, ma perché gli investimenti sono già stati fatti e quindi è un livello tariffario alto. Tenete conto che fra le zone tipo Toscana e le zone tipo, non so, Milano o Roma, dove l'acqua si paga relativamente meno, c'è un rapporto 1-3, 1-4. Quindi si può dire che nelle zone dove le tariffe sono già alte probabilmente non ci saranno ulteriori incrementi. Anzi, sarà via via anzi un differenziale che andrà a chiudersi. Adesso Arezzo, dire cosa succede. No, si può, perché molti dei nostri ascoltatori ci raccontano dove hanno le seconde case, per sapere un po' dal dottor Biancardi come andrà. Certo. E allora, adesso intanto abbiamo spiegato quello che sta succedendo, abbiamo interpretato un po' meglio le notizie dei giornali di questi giorni, dopodiché le bollette arriveranno, faremo due conti e vedremo appunto se saremo più o meno tranquillizzati dalle dichiarazioni del dottor Biancardi e se anche riterremo giustificati questi aumenti rispetto ai servizi di cui beneficiamo. Dottor Biancardi, intanto grazie per essere stato con noi, buona giornata. Grazie a lei, grazie a voi. Vado a Luigi Gabriele, che intanto ci racconta tutto di Leonessa, che lui conoscerà benissimo. Che cosa si mangia, se c'è un piatto tipico. Esatto. E quanta acqua serve per cucinare e quanto si paga? E quante docce si fanno agli abitanti? Diciamo innanzitutto che il paradosso è che Leonessa ha un ulteriore gestore a sé, dovrebbe invece rientrare in quello che è l'ambito territoriale ottimale e quindi dove dovrebbe essere teoricamente un unico gestore, e questo serviva, come previsto dalla legge Galli, in sostanza a fare in modo che si omogenizzassero costi, risultati e benefici di mettere insieme in comune tutte le cose. Nella provincia di Rieti questo è un po' un fenomeno abbastanza diffuso, anche nella provincia di Viterbo, diciamo in tutto l'Alto Lazio, che ci sono ancora le cosiddette gestioni separate, dove ogni comune ci sono molti comuni dove c'è la gestione addirittura ancora comunale, in altri casi addirittura invece c'è un gestore locale. E quindi in sostanza in queste aree non si paga questo con il metodo tariffario omogeneo che ha indicato Biancardi poco fa, o in prospettiva si pagherà secondo questo criterio? No, questo allora non è molto semplice spiegare. No, però, infatti i servizi idrici sono veramente una giungla. Allora, in sostanza un gestore vince una gara e attraverso la cosiddetta concessione di gestione per 30 anni prende in gestione un determinato territorio, che può essere un solo comune in questo caso o più comuni, tanti comuni, no? Sì. E deve già dire all'inizio della gara quale sarà il prezzo dell'acqua ogni anno in base degli investimenti che deve fare. Sì. Da quando l'autorità è entrata nelle sue funzioni, l'autorità ha introdotto un metodo di calcolo unitario per tutti i gestori, sì, perché in tempo c'erano metodi molto differenziati tra di loro, e verifica che in effetti il lavoro che i gestori hanno detto di dover fare, gli investimenti e quant'altro, adattandolo a questo meccanismo di calcolo, verifica la correttezza o meno e dice allora in effetti la tariffa che quest'anno potevi applicare è corretta, quindi, oppure non è corretta. Quando dice abbiamo fatto risparmiare a 6 milioni di consumatori è perché ha rilevato che la tariffa applicata, perché in quel caso investimenti ad esempio non erano stati fatti, allora ha rilevato che la tariffa non era coerente, quindi gli ha detto di dover abbassare, insomma, ridurre. Esattamente. Quindi non è molto semplice. No. Questo, pensate, in Italia ci sono circa 1600 gestori oggi, ma quando c'erano le gestioni comunali invece ce n'erano 8000 e rotti. 20 anni fa, quando è stata fatta la legge Galli, sì, ma è entrata in funzione effettivamente soltanto nel 2004, lo scopo era quello di omogenizzare queste situazioni, fare in modo che il più povero sotto il profilo idrico mettesse in comune con ovvero il più ricco mettesse in comune con il meno ricco, ovvero chi aveva più acqua la dava a chi non l'aveva, e chi aveva, diciamo, gli strumenti, le grandi società per poter gestire territori più vasti mettesse a disposizione tecnologie, know-how, competenze per fare il cosiddetto sviluppo della rete idrica italiana. Poi questo non è avvenuto, ne parleremo. Esattamente, ne parliamo adesso dopo la nostra pausa per la borsa. Intanto, a prescindere da chi ha avuto un piccolo sconto in bolletta, perché appunto questa riorganizzazione tariffaria per qualcuno si è trasformata anche in un beneficio sostanzialmente, c'è anche chi invece sta lamentando altre situazioni con guagli spaventosi, bollette clamorose. Ci sono alcune aree d'Italia che stanno invece appunto vivendo una situazione molto complessa da questo punto di vista, e adesso ci spiegherà tutto Luigi Gabriele. Nel frattempo direi che possiamo anche sentire i mercati. Cuore e denari. Paolo, il tuo amico è un genio. Te l'ho sempre detto io. Chi dici, Pino o Budello? No, io, il tuo amico, io sono un genio, hai capito? Ho appena prenotato un weekend alle terme, tutto compreso. Oh. Alle terme? Tu hai pagato per passare 2 giorni tra fanghi e alghe e non hai mai voluto venire a pescare con me, Budello? Che c'erano fanghi quanti ne volevi, alghe assassine, e al massimo ti chiedevamo i soldi della benzina, tu sei un genio. Le terme sono un posto triste. Le terme non sono un posto triste, come dici tu, alla sera si balla, io sono un grande ballerino. Per ballare forse, Debra, magari, sì. Perché no? Ma soprattutto andiamo, si va tutti alle terme, alle terme per recuperare o mantenere benessere, per sfruttare l'azione terapeutica delle acque. Secondo lo studio Hydroglobe, che è un progetto realizzato dalla Fondazione per la Ricerca Scientifica Termale e dalla Federazione Mondiale del Termalismo e Climoterapia in collaborazione con l'OMS, nel mondo sul totale delle patologie considerate l'idroterapia è utilizzata come cura principalmente per il 40% dei problemi dell'apparato muscolo-scheletrico, di cui noi parleremo tra l'altro, e del 17,5% delle affezioni respiratorie e dell'apparato digerente. In linea con noi tra poco, a partire dalle 11.45, uno dei massimi esperti mondiali di termalismo, il professor Umberto Solimene, che è direttore della Scuola di Specializzazione di Idrologia Medica e Medicina Termale all'Università di Milano. 800 24 00 24. Con Debra continueremo tra poco a parlare di acqua, e dalle 11.45 parleremo di acqua. Acqua termale, questa la paghiamo volentieri, posso dirlo? Sì. A tra poco. Acqua azzurra, acqua chiara, con le mani posso finalmente bere. No, per carità, noi paghiamo volentieri anche la regolare bolletta dell'acqua, a patto di comprenderla, naturalmente, a patto di comprendere anche gli aumenti quando arrivano. Allora stamattina stiamo tentando, è un settore molto complesso, di spiegare ai nostri ascoltatori come funziona questa riorganizzazione tariffaria che è stata varata dall'autorità del gas e dell'energia, che si occupa anche di gestione delle tariffe idriche. Da 2 anni a questa parte ha assunto, come avete sentito prima, questa competenza, e poi però sul territorio tante situazioni complesse che gli ascoltatori ci stanno raccontando, oltre che all'800 24 00 24, anche al 349 238 6666. Paolo ci racconta che a Rosazza, Biella, seconda casa, paga 160 euro annui senza aprire il rubinetto. I cittadini di Sedrina, Bergamo, continuano a pagare la depurazione inesistente. Andrea ci racconta: io ho 3 figli e una moglie che consumano circa 400 euro l'anno. Lui no. Solo loro. Per anni Genova, Gianni, ha pagato la depurazione senza impianto, non restituiscono l'importo al condominio perché non hanno i soldi, se li sono mangiati. E qui cita anche la società di quel posto. Con noi è rimasto Luigi Gabriele, responsabile affari istituzionali di Codici, associazione dei consumatori. Allora, oltre a questa riorganizzazione tariffaria, Gabriele, va raccontata anche un'altra situazione che stanno vivendo in questo momento molti cittadini di molti comuni italiani, che si stanno confrontando con l'arrivo di una serie di conguagli spaventosi, non capiscono per quale motivo. Ci racconta un po' in quali città sta verificandosi questa situazione e per quale motivo appunto arrivano queste richieste di conguaglio così imponenti. Questo è l'effetto del fatto che, come dicevo prima, il territorio è estremamente frammentato in termini di governance rispetto al controllo generale e alla regolazione in quota all'autorità per l'energia. Nel senso che è come se tutti quanti abbiamo le stesse regole, sì, ma ognuno a casa sua si gestisce in maniera autonoma. Si gestisce l'acqua a casa sua, si chiama gestore. Chi controlla e fa le tariffe dentro quella casa si chiamano conferenze d'ambito. Le conferenze d'ambito sono quei luoghi in cui siedono tutti i sindaci della zona per la quale è costituita l'autorità d'ambito territoriale. Un esempio: Roma e provincia alla sua, Milano e provincia alla sua, Como alla sua e così via, e sono i sindaci coloro che decidono l'articolazione tariffaria basandosi sul metodo di calcolo stabilito dall'autorità per l'energia. Quindi è fondamentale saperlo. Sì, no, infatti è fondamentale sapere allora per quale motivo l'autorità vara una riorganizzazione tariffaria se poi sul territorio ognuno può fare un po' quello che vuole. Io sintetizzando ho capito questo, Gabriele, così? Ognuno fa quello che ha stabilito nelle concessioni di gestione che ha affidato al proprio gestore, nel senso quello è un vero e proprio contratto che tu fai in genere per 30 anni, dai in affidamento a un gestore, stabilisci cosa vuoi raggiungere in questi 30 anni, gli investimenti e quant'altro. Il metodo di calcolo per la tariffa è quello dell'autorità, ma la tariffa varia ogni trimestre o ogni anno in anno in base a quello che tu hai effettuato realmente. Sono io, Conferenza d'Ambri, ovvero tutti i sindaci della zona, che devo controllare che tu hai fatto il tuo mestiere, altrimenti poi l'autorità non ti autorizza o meno ad applicare quel tipo di tariffa. Però la tariffa l'ho stabilito all'inizio della concessione. Molte concessioni sono addirittura, alcune sono appena partite, altre scadranno fra 15 anni, altre fra 20, quindi pensate che diversità, che disomogeneità di prezzo che c'è. Per questo a Milano c'è un prezzo, a Roma ce n'è un altro e così via. La cosa importante è che non è che gli aumenti stabiliti dall'autorità sono, è vero che sono omogenei e si rifletteranno da adesso in poi per tutti i territori, ma questi aumenti potrebbero essere suscettibili di ulteriori aumenti o diminuzioni, ma le diminuzioni quasi mai, dovute a altre questioni, come ad esempio le partite pregresse, che sono questi famosi conguagli che stanno arrivando adesso. Che cosa sono? Sono il fatto, come vi dicevo prima, i sindaci devono controllare. Se non controllano, in genere non possono autorizzare il gestore sul territorio a fatturare con quella tariffa. È successo per molti anni che in numerose aree, prevalentemente nel mezzogiorno ma anche nel centro sud e anche nel centro nord, è accaduto che per questioni di natura politica, perché è ovvio che sono i sindaci che decidono sul territorio e quindi ci possono anche essere degli scontri che possono derivare di qualsiasi tipo, cambia il presidente della provincia, cambiano i sindaci e così via, non si effettua quell'attività di vigilanza che vi dicevo io e quindi si rinvia di un anno ed anno l'approvazione delle tariffe. Anche perché, faccio una parentesi, Gabriele, ricordiamo che questo è un mondo che appartiene alle cosiddette partecipate, contro le quali, municipalizzate, contro le quali Cottarelli insomma voleva fare una bella operazione di pulizia e riorganizzazione che teoricamente non gli è stata consentita. Chiuso la parentesi, ecco perché. Ma Guardi, ha talmente tanto ragione che è l'unico settore dove ad esempio non esiste un'organizzazione di categoria che fa riferimento a Confindustria, per fare un esempio. Questo perché non è un settore a mercato dove ci sono aziende. No, infatti c'è tanto pubblico, infatti. Allora, comunque, tornando a questa questione delle partite pregresse, dove stanno arrivando questi conguagli? Quali cittadini stanno affrontando questa situazione in questo momento? I casi più critici sono sicuramente in provincia di Frosinone, a Napoli e provincia, dove c'è la Gori, in buona parte del mezzogiorno, quindi la Calabria prevalentemente, l'Abruzzo anche fortemente investito in diversi ambiti territoriali. Ovunque non ci sono state le approvazioni delle tariffe negli ultimi anni. Che cosa è successo? Che con l'introduzione del metodo tariffario stabilito dall'autorità, l'autorità passa al vaglio, supera un po' quello che dovrebbero fare i sindaci, nel senso di verifica se c'è stata l'attività di investimento, di gestione e quant'altro, e dice ok, allora la tariffa per l'anno 2010 che prevedeva 1,20 euro, tu adesso la puoi applicare, se non l'hai fatto prima puoi passare a recuperarla attraverso il conguaglio. E che cosa è accaduto? Che molte società avevano molti anni da recuperare, perché per molti anni non avevano applicata quella che loro ritenevano essere la tariffa congrua. E oggi accade quindi che ci troviamo dinanzi a conguagli che in alcuni casi superano addirittura dal 2004, dal 2005, dal 2006. Qualche bolletta arrivano? Ci faccio un esempio di entità. Ma per un utente tipo, potrebbero, un utente tipo che ha un conguaglio di questo genere almeno di 5 anni, consumando mediamente 200 metri cubi l'anno, parliamo di 800-1000 euro, mentre per un'azienda media possiamo parlare anche dai 15-20. Possono contestare queste bollette questi utenti, Gabriele, oppure devono rassegnarsi a pagare? Allora, magari rateizzando se sono in difficoltà. Innanzitutto la rateizzazione dovrebbe essere sempre prevista, sì. In questo caso tra l'altro l'autorità nella sua comunicazione sulle fatturazioni pregresse del 6 ottobre ha raccomandato alle aziende innanzitutto che tipo di fatturazione e come devono farla, in che modo devono agevolare gli utenti e lì dove è permessa o meno, ma ci sono molti casi in cui in effetti il recupero della partita pregressa non è ammissibile, perché il caso della prescrizione, ci sono molti casi in cui addirittura si chiedono partite pregresse a utenze che si sono attivate anni dopo, ad esempio certo. Io ho attivato l'utenza nel 2012, mi chiedono la partita pregressa dal 2006, quindi ci sono errori di qualsiasi natura, anche abbastanza grossolani, certo. E quindi c'è questo problema che sta generando innanzitutto un malcontento diffuso, che lei può immaginare, perché sono aree in cui già vivono di servizi da lungo corso che hanno trasformato il rapporto gestore-utente in maniera decisamente conflittuale. In più si aggiunge questa mole immensa di crediti da recuperare che fa diventare il rapporto decisamente esplosivo. Ma infatti... non nego che in gran parte di questi territori la soluzione che il consumatore sta adottando, e lo nego, e qui lo nego che per noi è corretta, è quella di non pagare addirittura le somme che gli vengono richieste. No, puoi immaginare le condizioni poi di rapporto e di bilancio. No, perché poi tra l'altro se poi si mettono anche a non pagare, queste persone arrivano in ogni caso delle modalità di riscossione che spaventano anche le persone che alla fine accettano invece di pagare, anche magari ritenendo di essere nella ragione di non doverlo fare, perché poi anche questa prassi, questo costume dei conguagli ci sta proprio qui. Gabriele, allora senta, noi abbiamo veramente tantissime telefonate, adesso dobbiamo andare all'altro argomento, però una ne prendiamo, certo, possiamo prenderla adesso dopo le informazioni sul traffico, la prendiamo velocemente. Paolo da Trento, deve essere però telegrafico. Paolo, buongiorno. Buongiorno. Io volevo solo segnalare che controllando bene la bolletta dell'acqua, sì, ho visto che pago più l'acqua che mando al depuratore che non l'acqua che compro per consumo suo domestico. Esatto. Allora ho chiesto, visto che ho un giardino, che mi venisse installato un contatore dell'acqua che effettivamente immetto verso il depuratore, perché uso metà dei volumi, li uso per annaffiare il giardino. Installatore in uscita, e quindi l'hanno accontentata, l'ha fatto Paolo? No, perché l'installazione e il costo fisso di una nuova linea dedicata all'irrigazione del giardino supererebbe il beneficio che ho di pagare senza diritto, senza utilizzarla, la depurazione di acqua che non immetto. Certo. Nella... No, tra l'altro vede questo anche questa situazione. Paolo, purtroppo devo salutarla. No, uno si mette già un settore dove non si capisce nulla, perché abbiamo sentito una ricostruzione di questa mattina, di Chiagine Praio parliamo. Una persona si mette lì di buona volontà, cerca di capire la bolletta, dice sai che faccio, cerco di essere proprio così consapevole, faccio un conteggio di quello che mi arriva, di quello che consumo veramente, di quello che va in uscita, non gli viene permesso. Il gioco insomma non vale la candela, ecco come qua. Si dice. Però... Gabriele, le faccio fare una conclusione fra due secondi, senta il traffico con noi. Sì. Cuore e denari. Angela ci scrive: Leonessa è un famosissimo luogo francescano, non lo sapevamo, là poveretti dovranno raccogliersi in preghiera per pagare le bollette. Un ultimo commento a Luigi Gabriele, appunto, di Codici, due raccomandazioni ai nostri ascoltatori per affrontare adesso tutte queste novità per la bolletta dell'acqua, che speriamo di non aver spaventato stamattina nessuno, qualcuno però ci dice mi state facendo venire l'ansia a sentire queste trasmissioni. Gabriele, una conclusione rapida, grazie. Allora, innanzitutto devono tenere i consumi sotto controllo in maniera assolutamente puntuale, perché uno dei temi principali è la mancata lettura dei consumi, per questo ci troviamo dinanzi al fenomeno anche dei conguai e così via, per cui si organizzassero i consumatori a leggersi autonomamente i propri consumi, in modo tale che possono anche ridurre o meno l'attività proprio in virtù del fatto che tengono sott'occhio il contatore, e comunichino loro stesso all'azienda di volta in volta, almeno periodicamente ogni mese, quanto hanno consumato. Perfetto. Lettura, questa prima cosa, poi seconda cosa? Devono imparare a saper fare il reclamo, perché uno degli elementi che abbiamo riscontrato principalmente è il fatto che il consumatore non sa delle informazioni prioritarie. Una tra tutto, ad esempio, è chi fa la tariffa. Molti pensano che la faccia il gestore stesso. E fare un reclamo è fondamentale anche e soprattutto in tutti quei casi in cui, ad esempio, abbiamo una perdita occulta in casa, non ne siamo a conoscenza e ci troviamo dinanzi a una fatturazione stratosferica. Se sappiamo come fare un reclamo, in questo caso ad esempio abbiamo diritto a chiedere che ci vengono scomputate in più, proprio perché abbiamo delle perdite occulte. Grazie a Luigi Gabriele, purtroppo devo salutarla, però guardi, ci abbiamo una marea da lavorare, sì, perché come si dice, dottor Gabriele, ci hanno telefonato in tantissimi stamattina, moltissime mail, e sappia che io oggi le intaso la sua perché gliele giro tutte, per cui mi darà un po' di consulenza in siamo privato, generose, vero dottor Gabriele? E adesso ecco qua, grazie molte, buon lavoro, adesso un po' di riposo termale ci serve. Poi che c'è la besciamello della vigna? Cos'è la besciamello? Mai sentito? Anche uno? È quella allora, bravo. Beh, c'è la besciamello. Sposta, non mi tocca. Non ho fatto niente. È sudata. E alle 17. Cosa c'è? Ti fanno l'impacco e l'involtino di foglia di vite. Hai embriaco. Ah, oh, addirittura? Ma come no? Sei tesa qua. Sei tesa dove? Sei punta e tesa qua. Ma quale osso? Questo è normale. Ma si è fatta male. Meno male che qua ti trattamentano bene. E andiamo alle terme. Pensate che il vostro problema potrebbe trovare giovamento dalle cure termali? Volete informazioni a riguardo? Vi interessa sapere se il trattamento di cui avete bisogno è a carico del Servizio Sanitario Nazionale? Siete abitué delle terme? Siete arrivati al posto giusto, al momento giusto. Abbiamo il piacere di avere in linea con noi il professor Umberto Solimene, presidente della Federazione Mondiale Terme. Professore, buongiorno. Molto buongiorno a voi. Buongiorno. È autore di un libro che io vi consiglio, un libro molto interessante, preciso, puntuale, con dati aggiornati, Medicina Termale Red Edizioni. Professore, lei oggi a cuore denari farà un po' da cicerone. Mamma mia, va bene. Allora, ci spiegherà i meccanismi d'azione delle acque termali, le loro differenze, i modi di utilizzarle, perché la medicina termale, come abbiamo anticipato in apertura, è una medicina antica, ma i ricercatori hanno scoperto e provato i meccanismi d'azione e i suoi effetti. Allora, che cosa hanno scoperto di interessante che noi dobbiamo sapere? Hanno confermato quello che l'esperienza, non dico, direi millenaria, della cura con le acque era già consolidato. In realtà, per quanto riguarda soprattutto le malattie artero-reumatiche, le malattie quindi riferite ad artrosi, riferite a tutte le patologie dell'apparato osteoarticolare, le malattie riferite all'apparato respiratorio, le malattie riferite alla pelle, hanno cercato di indagare e di verificare, mediante ricerche sia di tipo sperimentale, quindi in laboratorio, a livello cellulare, o ricerche cliniche, indagini cliniche, hanno dimostrato una ineluttabile efficacia proprio delle cure termali in una chiave scientifica, quindi un'esperienza, dall'esperienza alla dimostrazione scientifica della validità della cura termale. Professore, vogliamo fare una panoramica molto semplice e chiara, raggruppare le acque in famiglie, dire quali sono le indicazioni, quali disturbi possono curare? Io le metto a disposizione lo stivale e il corpo umano. Sì. Se lei vuole partire con noi, anzi noi partiamo con lei, veniamo. Mi sento già meglio. Lei mi chiede di sintetizzare, diciamo, quello che è stato messo in trattati di medicina termale. Ma modo, professore, certo, lei è il professor Solimene, mica uno qualunque. Grazie. Vorrei dire che l'Italia indubbiamente, se vogliamo riferirci al nostro paese chiaramente, l'Italia è un paese molto ricco di acque minerali. Minerali cosa vuol dire? Sono ricche di sali che sono certificati, sono verificati nella loro composizione e nella loro azione terapeutica da tutta una serie di ricerche. Quindi anche se troviamo un'acqua nel nostro giardino che è ricca di minerale, però non è un'acqua terapeutica. Quindi riferita a strutture terapeutiche, noi abbiamo in Italia circa 350 centri che sono accreditati dal Ministero della Salute come centri terapeutici, addirittura come presidi ospedalieri, se vogliamo, in tutte le loro caratteristiche, che possono fornire una serie di trattamenti. Direi che l'Italia può essere divisa è molto ricca come sorgenti, diciamo, come dicevo. È il paese delle acque. È il paese delle acque, cioè no, potrebbe essere, non dico il nostro petrolio, per usare una frase così, però indubbiamente è un paese molto ricco e soprattutto molto ben organizzato in questo senso. Allora, le acque possono essere pochissimo mineralizzate, quindi le cosiddette acque oligominerali, sì, che vengono utilizzate soprattutto per bibita, quindi con la cosiddetta idropinoterapia, quello che è un po' una terapia passata di moda, ma che andrebbe ripresa e andrebbe diciamo riscoperta per tanti aspetti, e che è molto utile appunto per le malattie del rene, malattie anche riguardanti. E quella che faceva dire vada a passare le acque. Esatto, quella proprio classica, ma non solo, e passare le acque, le passavano anche con acque più mineralizzate che agiscono appunto sull'apparato gastroenterico. Ma parlando di acque oligominerali, quindi direi che il paese è ricco di queste acque ed è distribuito praticamente dal nord, nell'area della Valtellina, per esempio, all'area anche del lago di Como, e via via scendendo verso tutta l'Italia, nel sud, a Caramanico, Pescara, che è un po' lungo, diciamo, il discorso da fare. Ad ogni modo direi che sono molto diffuse. Sono acque fredde, che possono essere bevute così con tutta una diciamo indicazione specifica e anche secondo modalità. Ci sono acque, per esempio, prendiamo quella classica del Lazio, notissima, adesso non so se si possono fare i nomi specifici, ma per esempio ci sono la Mecca potrebbe essere delle acque oligominerali, per esempio anche un'acqua vicino a Roma, no? Famosissima, certo. Eccetera. Poi abbiamo le acque medio minerali, che sono acque che hanno una composizione che non superi 2 grammi litro di sali. Che sono indicate, professore, prima dei GR? Sono indicate, praticamente le acque medio minerali sono anch'esse, possono essere prese per bibita e sono indicate praticamente per tutta una serie di azioni sull'apparato digerente. Apparato digerente, pelle, dolori articolari, risponderemo alle vostre domande col professor Solimene dopo il GR, restate con noi, chiamateci. Cuore e denari. Ho fatto scalo a Grado. E noi invece facciamo scalo alle Terme. In nostra compagnia abbiamo il piacere di avere il professor Umberto Solimene, presidente Federazione Mondiale Terme. Professore, noi stiamo andando un po' in giro per lo stivale, sì, per cercare di scoprire l'acqua, il trattamento termale più indicato per risolvere e quindi per curare, prevenire alcuni disturbi, in modo particolare quelli che riguardano il naso e la gola, le nostre articolazioni. Parleremo di pelle e, perché no, anche di digestione. Naturalmente, come sempre quando facciamo questi viaggi, professor Solimene, invitiamo i nostri ascoltatori a prenotare all'800 24 00 24 quelle che definiamo delle fermate intermedie. Ci sono infatti degli ascoltatori che ci chiedono le acque migliori per le funzionalità renale e quant'altro. Naturalmente daremo spazio alle telefonate. Professore, iniziamo a parlare dei disturbi dell'apparato respiratorio, quindi otiti ricorrenti, recidivanti, sinusite. Quali sono le acque migliori? Dove andiamo a trovarle lungo lo stivale? Dunque, le acque prettamente indicate sono le acque solfure, ricche di quel gas H2S, quello caratteristico dell'odore di uova marce, si direbbe, ecco, quello classico, dove ci sono dei grandi stabilimenti termali specializzati proprio in questo e che trattano da tutte le malattie croniche dell'apparato respiratorio dall'infanzia addirittura sino all'età avanzata, con diverse metodiche che sono tra le più varie, che sono dalle irrigazioni nasali alle docce micronizzate alle inalazioni, eccetera. Quindi direi che le cure dell'apparato respiratorio, le patologie delle vie respiratorie sono tra le patologie più curabili e più trattabili proprio dalle acque termali. Ma hanno un'azione preventiva o terapeutica? Hanno un'azione entrambe. Un'azione di prevenzione, quindi un ciclo di cure termali fatto opportunamente almeno due volte all'anno o almeno una volta all'anno può dare, può prevenire specialmente nelle persone, anche nei bambini che possono avere queste forme croniche o anche di allergia respiratoria, possono prevenire le ricadute o possono anche ridurre il trattamento farmacologico. Ecco, perché chi va alle terme spesso può ridurre, vero, il consumo può ridurre o compensare, legato appunto al fatto che, se parliamo poi di malattie dell'apparato osteoarticolare, ma ne parleremo dopo, certo, penso chiaramente la sensibilità al dolore può diminuire, per cui praticamente si può fare meno uso di analgesici o di antinfiammatori. E questo è un aspetto che mi preme sottolineare, professore, certo, molto certo, importante. A proposito di bambini, c'è Alberto D'Alecco, un papà che si definisce firma papà depresso, depresso per un problema della sua bambina, sì, comprensibile, Deborah, perché poi quando ce li hai sempre ammalati. Allora, la sua piccolina, nata prematura alla 27ª settimana, molti problemi ai bronchi, con broncospasmo perenne, soprattutto in queste stagioni. Adesso a 3 anni, esiste una zona termale per guarire o quantomeno prevenire questi attacchi? Perché lui dice: non vorrei sempre farla vivere con i cortisonici. Ecco, e questo ci dà modo anche, lui si trova a Lecco, professore, questo ci dà modo anche di rispondere agli ascoltatori che chiedono: ma a partire da che età si può effettuare un trattamento termale? Non esiste, dai 3 anni in su praticamente, anche i bambini, cioè da 3 anni in su sono diciamo trattabili, sono trattabili. Quindi direi che i centri che si occupano di questa problematica vicino a Lecco, nella zona di, vicino potrebbe andare nella zona, a Sirmione, in quell'area di Sirmione. Ecco. Anche a me sarebbe Sirmione, venuto in mente Sirmione. Sirmione diciamo, ecco, dipende poi dalla comodità della persona, dove ci sono centri legati, proprio specializzati proprio sulle malattie dell'apparato respiratorio e anche nell'infanzia. Proprio anche Sirmione è proprio stata una delle primissime che molti anni fa iniziò proprio a specializzarsi in questo trattamento, in quel settore. Infatti, dopodiché, Alberto, professore, scrive: vorrei che non utilizzasse sempre solo cortisone. L'abbiamo solo accennato, ma è provato, è dimostrato questa relazione. Cioè, il trattamento termale può aiutarci a ridurre il consumo dei farmaci. Certo, sicuramente. Andiamo, abbiamo i nostri ascoltatori che ci portano stamattina qua e là. Stamattina si sono scatenati, davvero, sì. Allora, andiamo a Roma, dove c'è Rosa. Andiamo da Rosa, perché tra l'altro parliamo di pelle. Esatto, sintetizza una domanda che stanno facendo in moltissimi tra Facebook e tutti i canali per raggiungerci. Rosa, benvenuta. Sì, buongiorno. Io volevo sapere se le acque termali, in caso quale acqua termale, può dare giovamento alla dermatite atopica. Mia figlia ha 30 anni e ha la dermatite atopica praticamente da 20, che è ricorrente, ogni tanto fiorisce, poi si rispegne e poi Sì, guardi, se li sa benissimo che è una malattia complessa, proprio il fatto che sia atopica, quindi vuol dire che non ci sono delle specifiche individuazioni di cause specifiche, tutto un bouquet di cause, quindi bisogna agire un po' a tutto campo. Direi che qui le acque termali possono giovare soprattutto acque che sono integrate con altre metodiche, quindi direi metodiche di tipo anche farmacologico e soprattutto anche di metodiche di tipo climatico, perché come sa bene c'è anche l'aspetto del clima, che fa sole, la differenza, eccetera, certo, la concentrazione del sale. Ora direi che in Italia di stazioni termali specializzate proprio su questo purtroppo non ce ne sono molte. Io conosco bene per esperienza anche quella di Comano, che ormai ha acquistato anche un'area molto specifica per il trattamento della psoriasi. Esatto, ma anche in genere. Poi ci sono altre zone, io vorrei tornare. Dove si trova la signora? A Roma. Allora, la signora si trova a Roma. Dove la portiamo? Anche lì, nella zona di Roma, adesso ci sono anche le cosiddette acque albule, anche vicino a Roma. No, ma cosa sono queste acque? Professore, non me ne ha mai parlato di queste acque. Si chiamano acque albule, si chiamano, io me le ricordo come così dai libri, diciamo, nel senso, cioè, sono antiche terme queste albule, perché sono ossidandosi, i gas contenuti nell'acqua ossidandosi praticamente danno questo colore bianco, questo colore biancastro, diciamo, un po' lattiginoso. Quindi, direi che senz'altro nel Lazio ci sono delle terme basterebbe guardare buone acque vicino a Roma, ci sono anche a Viterbo, le terme di Viterbo. Adesso ma che caratteristiche hanno le acque che sono indicate per la pelle? Devono avere caratteristiche, un contenuto di zolfo o quello di solfati che puzza, elevati, insomma. Perché hanno un'azione di cicatrizzante innanzitutto, quindi hanno questa azione di lenire, anche di favorire la cicatrizzazione legata appunto a queste forme di dermatosi, eccetera, un'azione detergente importante. Mm-hmm. E poi in genere la cura termale, qui non è solo riferita a questo tipo di acque, dà anche un'azione stimolante di rinforzamento del sistema immunitario in genere, che è molto importante. Poi l'altro aspetto, direi che qui però non sono uno specialista, direi che è importante in tutte queste cose anche la dieta, il tipo di alimenti, certo, che uno assume, eccetera. E poi non dimentichiamoci, dicevo, l'aspetto climatico, il sole, eccetera, che fa anche la sua parte, certo. Ma professore, scusi, volevo chiederle, molte malattie della pelle, abbiamo parlato della dermatite, ma possiamo anche pensare alla psoriasi, hanno fasi altalenanti e i sintomi si manifestano con maggior o minore intensità, no? In alcuni periodi dell'anno. Immagino che ci siano momenti più indicati di altri per sottoporsi ai trattamenti. E questo, dunque, direi che questo dipende, appunto, se parliamo appunto di psoriasi o di patologie dermatologiche, di periodi dell'anno, evitare forse il periodo di massimo calore, quindi quando c'è in agosto, luglio, agosto, dipende, ormai le stagioni sono talmente cambiate per cui non si riesce più a fare. L'ideale sarebbe autunno e primavera, fare questo ciclo, o in autunno o in primavera. Dipende poi, se parliamo di psoriasi eccetera, è molto importante anche la componente solare, la componente salina delle acque eccetera, però il ciclo ideale è la primavera subito dopo quindi l'inverno e l'autunno, perché così ci prepara per rinforzarci le difese. E può portare anche un po' più a lungo gli effetti dell'estate, che sono per alcune malattie dermatologiche, certo, il sole ha un effetto sole, veramente aree, terapeutico. Sale, eccetera, è molto importante, e dicevo anche il discorso dietologico, quello importante, è nutrizione. Dove vuoi andare? Dimmi tu, scegli dove ti piace. Allora, Deborah, andrei a Verona solo per concludere magari il ragionamento sulla dermatite, in questo caso riguarda dei bambini, per poi andare ad altre magari problematiche, insomma, di salute che possono essere risolte con un trattamento termale. Renato da Verona, buongiorno. Salve, buongiorno. Benvenuto. Allora. Io proprio lì alle terme di Comano, i bambini che soffrono di psoriasi atopica. Onestamente, da quando ho cominciato a portarli lì, ha trovato dei benefici. No, diciamo che proprio si è ridotto e è quasi andato a scomparire. Però oltretutto ho notato con le persone che ho conosciuto in queste terme qui che la psoriasi proprio cala in maniera incredibile, la psoriasi. E onestamente una cosa che io volevo un po', tra virgolette, denunciare, anche se mi sembra una parola grossa, il fatto che i dermatologi di queste terme qui non me ne hanno mai detto. Io sono andato per anni da specialisti di tutti i generi, dandomi sempre alla fine creme che contenevano dei cortisonici. E quando poi alla fine vado in queste terme qui, da quel giorno io non ho più utilizzato una crema cortisonica. E questo mi fa incazzare, perché può darsi che io devo dire che Renato stia un po' zen. Io devo dire che ho partecipato a dei convegni proprio sulla psoriasi, abbiamo avuto anche delle dermatologi che si occupano di questo problema, e più tante volte hanno suggerito il trattamento termale. Quindi è come la vita è fatta di incontri, Renato. Ha fatto bene a chiamarci e a raccontarci la sua esperienza, che vorrei commentare con il professor Solimene. Certo, ottimo. Ha fatto ha centrato benissimo la domanda, perché purtroppo la cultura medica italiana, ma anche direi europea, nel campo termale è molto molto ridotta. Molto spesso il medico non conosce la potenzialità della cura termale, o anche per un motivo, diciamo, proprio di conoscenza, di formazione. Il giovane medico oggi non riceve una preparazione adeguata sia nell'università che nelle scuole di specializzazione. Il medico generale non riceve, perché è bombardato da tutta un'altra serie di input diciamo informativi di carattere diverso, eccetera. Quindi direi che manca questo. Noi abbiamo fatto uno sforzo facendo dei corsi proprio online per i medici di introduzione alla cura termale, alla medicina termale. Come sono andati, Io pensavo molto di più, ma il medico purtroppo è troppo peso. Io pensavo di arrivare almeno a 1000 medici che seguissero online questi corsi, cioè, quindi un corso fatto anche abbastanza bene, cioè direi direi interessante, e purtroppo abbiamo avuto molto meno della metà di quello che mi aspettavo. Ma ad ogni modo bisogna battere e ribattere, comunicare correttamente le terme, questo è importante, perché sono correttamente con le evidenze scientifiche, perché ci sono, certo. Quindi non è io vado alle terme, mi rilasso e allora mi va via la psoriasi, è altro. È anche quello, ma non è solo quello. Noi andiamo a Prato perché c'è Ilaria. Noi vogliamo parlare di un po' dei disturbi, ne abbiamo detto naso, gola, pelle, dolori articolari, naturalmente possiamo anche rispondere ai nostri ascoltatori, ma questi sono i disturbi, le patologie di cui ci occupiamo oggi e di cui ci sono delle conferme schiaccianti. Ilaria, buongiorno da Prato, benvenuta. No, buongiorno a voi. Io volevo appunto parlare della mia patologia. Soffro di una gonartrosi al ginocchio destro già da diversi anni. Quindi sentendo dire appunto di queste cure termali è tanto che mi sta macchinando nell'idea di poter usufruire di questo tipo di terapie. Volevo sapere appunto dal professore se qui nella zona soprattutto toscana esistono queste cure termali e che miglioramenti potrei avere. Ecco. Brava, grazie Ilaria, una bella domanda. In quanto al periodo indicato per la cura. Ma lei vive in un'area fortunata o fortunatissima, perché la regione toscana è molto ricca di terme, quindi ha solo l'imbarazzo della scelta, non so dove si trova. Prato. Quindi lei basta che prenda adesso qui dare dei nomi specifici, ma ci sono almeno diamone 4-5 che così non facciamo da Montecatini a Bagni di Lucca le terme di Viareggio, c'è di tutto, guardi, c'è tutta una serie di basta che guardi sulla guida terme della Toscana, adesso non so la signora se ha accesso a internet eccetera, ma terme in Toscana c'è questa varietà, e direi che nella sua patologia lei ha indubbiamente troverebbe un ottimo vantaggio, un aiuto senz'altro. Certamente non potrà ricostruire la cartilagine, non potrà risolvere definitivamente i suoi problemi, ma troverà sicuramente un vantaggio legato alla mobilità, legato al dolore, legato a minor consumo di farmaci, quindi anche di intossicazione, legata appunto a questi farmaci che sono efficaci ma anche hanno anche un altro aspetto negativo, diciamo, di intossicazione dell'organismo. Quindi direi che la gona è una delle indicazioni più specifiche. L'unica cosa che da non fare è proprio quando è nella fase acuta. Del dolore, esatto, perché quella è una precisa controindicazione, perché proprio aumenterebbe poi l'infiammazione eccetera, e poi c'è tutto il discorso appunto peso eccetera, postura eccetera eccetera. Certo, le terme aiutano, non possono risolvere altri problemi, naturalmente il peso sulle nostre ginocchia si fa sentire. Se ci fossero le terme miracolose per dimagrire, professor Solimene, insomma. Ci sono quelle? Dove mi manda? Attenzione, sono quelle con quelle che poi dice dimagrisci in settimana, benissimo eccetera, dopodiché ritorni quindi è un fatto, si può dimagrire anche molto rapidamente, però poi purtroppo... Professore, conosce le terme di Genga vicino a casa mia? Terme di Genga? Genga, provincia di Ancona? Ancona no, sono tante. Ce lo manca. Sono piccoline, mamma mia che brava. 800 24 00 24, raccontateci se avete utilizzato, avete provato un trattamento termale, oppure raccontateci il disturbo, il problema per il quale magari pensate che un trattamento termale potrebbe rappresentare una soluzione. Lo state facendo anche al 349-238-6666. Pietro ci racconta che ha risolto la sua dermatite con alghe vere, laminaria e una lampada ad alta pressione ogni settimana. Professor Solimene. Lui l'ha risolto, adesso bisogna vedere appunto com'era la sua dermatite. Dermatite. Quindi può essere indubbiamente anche non a caso, noi parliamo sempre di terme, perché le terme sono strutture riconosciute dal Sistema Sanitario Nazionale. Ma esiste anche l'altro aspetto, il mare. purtroppo noi abbiamo 8.000 km di coste che praticamente potrebbero essere benissimo altra forma di terme, cosiddette terme marine, però non sono accettate o riconosciute. Mentre all'estero funzionano parecchio. All'estero funzionano molto, sì, pensiamo ai francesi sono stati i primi, poi hanno seguito i tunisini, hanno seguito gli spagnoli. La talassoterapia. La talassoterapia, che purtroppo come immagine è considerato, vado al mare, fammi il bagno, eccetera, solo la parte estetica. Ma noi abbiamo dei centri di talassoterapia in Olanda, dei centri di talassoterapia in Germania, nel nord della Germania. Quindi potremmo averli anche potremmo noi. Potremmo avere delle cose splendide unite al sole e alla concentrazione dell'acqua di mare. Professore, vede, lei, noi stiamo chiudendo, ma lei deve tornare perché di mare vogliamo parlare. Volentieri, quando torna? Perché è il mio punto debole, diciamo. Quindi va bene, anche il nostro. Grazie professor Solimene per essere stato con noi, grazie io a voi. Io ho fatto i fanghi di vulcano, però certo che prima di toglierti poi l'odore ce ne vuole un po'. Infatti adesso sei profumatissima e così ti voglio, bella e profumata qua domani alle 11. Buona giornata a tutti.